Buongiorno, prima di parlarvi del libro di cui vorrei parlarvi oggi, che è un libro di Vonnegut, volevo farvi una segnalazione al volo. Nell'ultimo Urania, quello che sta in edicola da circa una settimana, che è una antologietta di quelle estive, di poche pretese, mostri del cielo e della terra, campeggia però, a mio avviso, una piccola perla, che è un racconto di Philip José Farmer chiamato Dopo la caduta di King Kong. Qualcuno di voi lo avrà forse letto nell'antologia di Farmer uscita l'anno scorso, un anno e mezzo fa, da Rizzoli, 2 anni fa forse, chiamata La Grande Avventura. Per chi non l'avesse letto, vale la pena di spendere le 4.500 lire di questo fascicoletto, ripeto, peraltro non memorabile come tutti gli Urania da un po' di tempo a questa parte, ma io direi quasi solo per questo racconto, che è un vero gioiellino di spirito farmeriano, cioè di pastiche, di mescolanza tra il appunto reale, la insomma finzione, eccetera, perché l'idea di fondo è che King Kong sì è un film, ma è un film ispirato a un fatto realmente accaduto, cioè King Kong è davvero esistito e questa storia viene raccontata, la vera storia di King Kong, del King Kong vero, da un nonno a una sua nipotina, si mescolano storie d'amore personali, eccetera, eccetera, e ci sono chicca nelle chicche anche 2 famosissimi personaggi dei fumetti e dei romanzi d'avventura degli anni 30 che compaiono in questo appunto racconto. Non vi dico quali sono per non togliervi l'eventuale piacere della sorpresa e della scoperta, ma vi segnalo insomma questo bellissimo, a mio parere, racconto di Farmer in quest'ultimo Urania. Ecco, passiamo invece al libro di cui vorrei parlarvi oggi, che è un libro più corposo. È un libro di Kurt Vonnegut, il suo rapporto con la fantascienza sarà forse giudicato dai puristi piuttosto labile, ma io ve ne parlo lo stesso perché Vonnegut è uno degli autori che mi piacciono, mi intrigano, mi commuovono, mi appassionano, mi fanno incazzare, mi fanno insomma sognare di più, e quindi ve lo dico. Il titolo è Perle ai porci, ovvero Dio la benedica Mr. Rosewater. I fedeli di Vonnegut sanno che questo libro è già uscito in Italia un 15 anni fa, credo, per Mondadori. Questa volta invece viene presentato dalle edizioni Eleutera, che sono un gruppo di edizioni di orientamento, di impostazione un po' anarchica, come probabilmente voi sapete, e che hanno diciamo una certa attenzione a questo filone della utopia negativa, della critica sociale corrosiva. Amano Vonnegut in particolare perché hanno già pubblicato di lui, ricorderete forse, alcuni mesi fa, Comica Finale, che è un romanzo molto più recente. Questo invece è un vecchio romanzo di Vonnegut del 65, se non vado errato, ed è quindi uno della primissima fase in cui Vonnegut si stava staccando dal suo esordio, che era stato un esordio tipicamente fantascientifico, per approdare a cose in cui certamente la fantascienza c'entrava sempre, come c'entra sempre queste storie in queste storie un po' paradossali, estremamente corrosive che lui fa, e con questo stile che io devo dire a me fa veramente impazzire, perché ci sono queste frasi brevissime, questo fatto di dire le cose più incredibili per il mondo come è o come si crede che debba essere, e lui le insomma dice con il tono di voce più ovvio e più normale insomma possibile, no? Ecco, allora questo il titolo in realtà originale era Prima Dio la benedica Mr. Rosewater e poi dopo Perle ai porci come sottotitolo. In questa edizione italiana è stato diciamo cambiato, è stato anche ritradotto, insomma è una cosa che vale la pena leggere per chi non l'avesse ancora letto, o rileggerla per chi l'avesse letto nella vecchia edizione e non se lo trovasse più nella sua biblioteca, come rischiava di succedere a me. La storia qual è? La storia è una delle solite storie assolutamente paradossali di Vonnegut, abbastanza divertente. Un ricco ereditiere, uno che ha ereditato una intera diciamo fortuna nella forma di fondazione, in modo da non dover pagare le tasse, negli Stati Uniti della fine anni 50, primi anni 60, decide per una serie di strane motivazioni sue che non si capiranno per tutto diciamo il libro, di distribuire queste sue ricchezze un po' evangelicamente ai poveri, perché è convinto che sia una cosa assurda che negli Stati Uniti uno debba nascere e sappia già in anticipo che possiede svariati miliardi di dollari, mentre ci sia gente invece la quale è invece costretta a, insomma, penare, faticare, sudare per mettere insieme il pranzo con la cena. E naturalmente tutto questo getta nello sconforto non soltanto il padre, che non ha più controllo su questa cosa, ma insomma, non soltanto la moglie di questo, appunto, personaggio che si chiama Elliot Rosewater, cioè quello che dà il titolo al libro, ma getta non nello, diciamo, sconforto, ma apre insperate possibilità ad un avvocato libanese trapiantato, il quale vede nello strano comportamento apparentemente pazzo di questo Mr. Rosewater il modo per scippargli queste sue, diciamo, sostanze a vantaggio di alcuni lontani cugini. Dunque il libro si basa tutto su questa cosa, appunto, terribilmente paradossale, e, diciamo, naturalmente dà il destro da questo punto di vista a Vonnegut di appunto parlare, di tratteggiare questo sistema americano dominato da questa corsa così allo status, all'oro, ai soldi, eccetera eccetera, in modo che è veramente magistrale. Segnalo l'aspetto più chiaramente fantascientifico, che è quello invece che per tutto, diciamo, il libro compare una sorta di scrittore parallelo, che è uno scrittore immaginario che si era appunto immaginato, appunto, Vonnegut, che si chiama Kilgore Trout, e con compaiono come commento, eccetera eccetera, alcuni incredibili, ovviamente inesistenti, romanzi di questo Kilgore Trout, di cui ci vengono citate alcune perle, questa volta non date ai porci. La curiosità che collega le due cose di cui ho parlato oggi è che un, diciamo, libro a nome Kilgore Trout uscì effettivamente e aveva proprio il titolo, uno dei titoli spesso, diciamo, citati di questi libri finti da Vonnegut nei suoi libri. L'autore però non era Vonnegut, ma era il solito burlone Philip Joseph Farmer, il quale aveva fatto questo uno scherzo terribile a Vonnegut. Allora, io consiglio, insomma, di leggere questo Perle ai porci, che è edito da Eleutera Edizioni, costa lire 25.000 per complessive pagine 230. Vi saluto per oggi e ci risentiremo la prossima settimana.